L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. 2 metri di distanza in ogni momento, conoscete le regole. Un passo. Solo 1 metro più vicini. I will fight for you, I always do, until my heart is black and blue. I will stay. Dopo aver azzerato il marzo del turismo, il coronavirus cancella anche il mese di aprile. Ponti di primavera inclusi, per i quali ci staremmo preparando in questi giorni, per un totale di 10 milioni e mezzo di viaggiatori svaniti, 3,3 miliardi di consumi turistici persi. Le stime, ma ce ne sono molte, tutte comunque dello stesso segno, sono di CST Firenze per Assoturismo Confesercenti. Per la filiera turistica italiana è stato uno shock. Il mese di aprile rappresenta il momento della ripresa degli spostamenti, ma anche il periodo della riapertura delle imprese stagionali dal mare ai laghi. E chissà se e come li rivedremo. Buon sabato allora da Anna Migliorati. Andiamo nella regione per eccellenza dei ponti d'arte, quella in cui saremmo in molti andati in questi giorni. Andiamo in Toscana. I conti ovviamente li faremo alla fine, ma come sempre in queste settimane noi proviamo a fare qualche riflessione invece. Allora io saluto Francesco Palumbo, direttore Toscana Promozione Turistica. Buongiorno. Gli elementi già certi, quali sono? C'è di considerazioni. La prima è che le città d'arte e i luoghi di cultura assolutamente sono quelli che saranno più penalizzati, perché sono luoghi anche di concentrazione delle visite. Il secondo elemento è che anche il turismo d'affari, dei congressi, fiere, turismo scolastico e turismo religioso è praticamente per il 2020 non recuperabile. C'è un terzo comparto del turismo. Il turismo è molto molto sofferente, e tutta la struttura di organizzazione dei viaggi, sia in incoming che in outgoing. Anche perché questa è la finestra grossa delle gite scolastiche, così come del turismo nelle città d'arte. I fattori incerti invece? I fattori incerti riguardano intanto rispetto al comportamento del virus, no? E quindi l'aleatorietà di ogni previsione. In secondo luogo c'è proprio l'elemento la conseguenza di questa incertezza psicologico degli individui, e che determina le scelte di viaggio. Anche se si dovesse riaprire in maniera graduale, quante saranno le persone in grado di viaggiare tra gli italiani in Italia? Poi la contrazione dell'offerta di servizi, perché tutta la filiera del turismo, che è una filiera che non è solo ricettività e ristorazione. Ecco, concentrandosi sulla Toscana, voi state preparando il piano B? Noi abbiamo preparato una cabina di regia con tutte le parti sociali coinvolte, fino alle associazioni di categoria, così come a Toscana Aeroporti e alle autorità portuali, per definire insieme quali sono le tempistiche con cui muoversi. Anche perché dare il messaggio "cominciate a prenotare troppo presto" è molto rischioso. Darlo troppo tardi si rischia di perdere il treno. È difficile, resteranno in attesa fino all'ultimo momento per prenotare. Questo danneggia le strutture, molte delle strutture stanno decidendo anche di non aprire nel 2020, di tenere chiuso il 2020, di capitalizzare regimi di aiuto che anche a livello centrale arriveranno, per poi riaprire quando il mercato sarà un po' più certo e sarà un po' più orientato nel 2021. Quindi questo, diciamo, la riduzione anche dei servizi, bisogna capire chi è in grado di restare aperto sul mercato. Una campagna nel corso della crisi, soprattutto sui social media, che serve a dire la Toscana c'è. È un momento in cui è necessario stare fermi, ma subito dopo abbiamo destinazioni nella Toscana che sono in grado di accogliere anche forme di turismo. Inciderà anche il prezzo, i costi si alzeranno, si abbasseranno, resteranno uguali in una situazione così cambiata? Come è successo negli altri momenti di crisi, ci possa essere una corsa al ribasso dei prezzi. Il complemento è di avere anche delle mete di offerta che sono meno note, ma altrettanto belle da visitare e che garantiscono un turismo più diffuso e quindi un po' meno esposto rispetto alla crisi sanitaria. Grazie allora per essere stato con noi. Arrivederci. operator, agenzie di viaggio, organizzatori di eventi hanno lanciato il manifesto per il turismo italiano con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia, un appello alle istituzioni, a tutti coloro che vivono di turismo e agli italiani per salvare un settore che rappresenta, ricordiamo, il 13% del PIL nazionale. Ma dicevamo, proviamo anche a fare qualche passo avanti con la nostra piccola economia. Benvenuto anche a Fabio Corno, professore di economia aziendale all'Università Bicocca di Milano. Grazie a voi, grazie a lei. Quali sono gli elementi da cui poi dipenderà la situazione di ora, ma anche lo scenario che potremmo disegnare in futuro? Cominciamo dalle ferie, soprattutto per il mercato domestico che incide in maniera rilevante sul turismo italiano, la domanda sarà meno provvista di ferie. Testimoniamo tutti i giorni contatti con persone che le aziende hanno messo in ferie forzata. Quindi il monte ferie si riduce, quindi materialmente le persone non avranno più ferie a cui attingere per poter andare in vacanza. D'altro canto c'è anche un rischio percepito molto più elevato per quanto riguarda i mercati internazionali di lunga percorrenza. Ci sarà naturalmente una riduzione della capacità di spesa. Sappiamo bene come la cassa integrazione sia uno strumento a cui le aziende stanno ricorrendo in modo sempre più intenso, e da ciò una riduzione del budget per vacanza. La booking window, d'altro canto, si riduce in maniera... Per booking windows cosa intendiamo? Intendiamo il tempo a disposizione per poter decidere e per poter prenotare. Quindi cercheremo tutti di prenotare nello stesso momento? Assolutamente sì, e poi in funzione di quelli che sono gli scenari che caratterizzeranno l'uscita da casa, e sicuramente i mesi di giugno, luglio e in parte lo stesso agosto saranno mesi nei quali sarà difficile recuperare i volumi storici, che comunque erano molto importanti. Si dice in questi giorni che torneremo a fare le vacanze come negli anni 60. Cosa significa? Significa che se andiamo a vedere quello che è stato l'andamento della domanda alberghiera, delle presenze negli ultimi 30 anni, vediamo che a partire dal 78 in avanti avevamo testimoniato quasi un raddoppio del numero delle presenze, tant'è che in assenza di Covid-19 si prospettava per il 2020 circa 280-281 milioni di presenze in Italia. Si prospetta invece nei diversi scenari una riduzione possibile fino a 127 milioni, nello scenario peggiore, vuol dire arrivare a meno del 1978. Quindi meno persone in vacanza, meno tempo in cui stare in vacanza, più seconde case o case dei nonni o di famiglia. Diciamo che questo influenzerà soprattutto quelle che sono le destinazioni classiche. La destinazione mare è quella che costituisce il primo mercato per presenze, fa registrare oltre 80 milioni di presenze l'anno. Si aspetta una riduzione dal 43 al 54%, e molto imperniata soprattutto sulla riduzione del mercato estero. Sono anche le città d'arte ad essere influenzate. Queste da subito, visto che siamo in periodo di ponti, e di gite scolastiche. Di gite scolastiche per le città d'arte. Per quanto riguarda il mare, faccio riferimento in particolare alla Liguria, che è meta storica di destinazione di anziani che sono venuti totalmente a mancare. Non tutte le regioni sono colpite peraltro nello stesso modo. No, assolutamente no. Ci sono alcune regioni che sono colpite in modo più significativo. Veneto, c'è un calo atteso importantissimo di quasi un milione di arrivi, di oltre 3 milioni di presenze. La Toscana, con riferimento sempre alle città d'arte, la stessa Lombardia e il Lazio, seguono il Trentino e l'Emilia, il Sud, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise sembrerebbero esserle di meno in termini relativi. Grazie allora per essere stato con noi. È stato un piacere. Piccola economia nel carrello della spesa. Marco Colombo, IRI Group, bentornato. Come è andata la settimana? Buongiorno Anne, buongiorno. La settimana di Pasqua di quest'anno, in questo contesto anomalo, è stata molto positiva, nel senso che c'è stata una crescita di oltre il 10% a totale negozio e addirittura del 14% per i prodotti di largo consumo confezionato. Questo rispetto alla stessa settimana dell'anno scorso, che non era la settimana prima di Pasqua. Se lo confrontiamo, questo dato, con la settimana di Pasqua del 2019, abbiamo comunque dei segni positivi, più 2,5 totale negozio e più 6,3 per il largo consumo, che significa che i consumatori hanno comprato di più. Ovviamente incide il fatto che non c'è stata la quota dei ristoranti e delle gite fuori porta. Esatto, infatti si leggono dei trend particolarmente sostenuti nei primi giorni della settimana. Il che però è un altro indicatore del fatto che a casa davvero ci siamo stati. Ovviamente non per tutto, ma solo per le merceologie che si possono acquistare, per quel che si può prendere. Sì, infatti le categorie che crescono di più sono le classiche categorie alimentari per preparare il pranzo o la cena a casa. Parliamo di farina, parliamo di lieviti che sono diventati introvabili all'interno dei punti vendita, preparati per pizze, mascarpone, besciamelle, ingredienti per pasticceria, categorie che di solito sono minori ma che stanno vivendo una sorta di nuova giovinezza in questo periodo. Così come appunto la cucina casalinga. Si vede qualche segnale che ci porta verso una fase 2 o sugli scaffali nei carrelli non si vede ancora? La tipologia di prodotti che vengono acquistati e le modalità di acquisto, quindi riduzione della frequenza e aumento della dimensione del carrello, non sembrano andare ancora in quella direzione. Vedremo allora cosa ci aspetta la prossima settimana e se cominceremo a vedere magari invece in questo qualche segnale. Grazie intanto per essere stato con noi anche questa settimana. Grazie, Anna, e buona giornata. Ci risentiamo sabato prossimo. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Come sempre sul nostro sito www.radio24.it, l'economia delle piccole cose, scriveteci. Noi siamo qui anche per raccontare la piccola economia in questa emergenza, aspettando ovviamente cosa succederà. Ancora un buon sabato a tutti.